lancio verso l'universo. Cambio verso la visiera del new era, la rima vera vera, la primavera dell'hip hop. Voglio spopolare, copulare con il sole in questo freddo popolare. Una jacuzzi, donne a testa sotto come struzzi, ma non applausi dai truzzi. Puoi darmi anelli, anche gioielli, non credo siano quelli a fare belli i miei fratelli. Ma dammi money, domani non ci saranno più, avrò le mani più bucate di Gesù. Gente, finora non ho niente, solo una mente che ragiona illegalmente. Non si arrestano le gesta di protesta, fanculo ben pensanti, siete sbirri della testa. Dalla strada alle stelle, tragitto così fitto che non puoi neanche vederle. Dalla strada alle stelle, sarò trafitto ma vado dritto perché voglio averle. Dalla strada alle stelle, tragitto così fitto che non puoi neanche vederle. Dalla strada alle stelle, sarò trafitto ma vado dritto perché voglio averle. Bomber, New York Yankees, cappello, New York Yankees. Oh, pure un polsino e una t-shirt, ciò nonostante sono urlante. Yankees gone, il primo mondo è infame, il terzo nella fame. Mi chiami criminale, rispondo con le lame. Fai tu lo spettatore del film, io ne sono pieno come il caricatore del mio team. Il mio pensiero brucia le bugie, abbi fiducia, porterò in alto GE. Dai blocchi di case popolari ai blocchi mentali di chi non crede nel rap. Adolescenza incauto a fare filtri, con di fronte l'auto degli sbirri. La bamba è di rigore nella piazza, non sei buffon ma buffone, perciò ti spiazza. Dalla strada alle stelle, tragitto così fitto che non puoi neanche vederle. Dalla strada alle stelle, sarò trafitto ma vado dritto perché voglio averle. Dalla strada alle stelle, tragitto così fitto che non puoi neanche vederle. Dalla strada alle stelle, sarò trafitto ma vado dritto perché voglio averle. E questo era Pensie, Genova e Case Popo represent. Full Clip Team 2007, il countdown è cominciato, fra.